Il punto di Stefano Folli. C'è un clima sottinteso di violenza che serpeggia nel paese e di cui le Molotov contro l'alta velocità sono un indizio evidente, ma non l'unico. Lo avvertiamo in troppe parole che vengono spese con qualche leggerezza, nell'intolleranza di Brescia sabato scorso, nel recente gravissimo episodio di Roma, vittima i carabinieri, che non vorremmo fosse dimenticato troppo in fretta. Questo clima violento fa da contraltare al senso un po' retorico e superficiale di pacificazione che accompagna la nascita delle larghe intese, cioè del governo Letta di grande coalizione. È una contraddizione o un'ambiguità che deve essere risolta perché è foriera di gravi problemi. Dobbiamo insomma decidere se vogliamo essere una comunità conciliata nella sua dialettica politica, ovvero soccombere alle tensioni che affiorano quasi ogni giorno e che sono aspre, come aspro è stato il confronto, anzi il conflitto che abbiamo vissuto per troppi anni.